Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. La penna è davvero più potente della spada. And now the end is near, and so I face that final curtain, my friend. I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Come giornalista, Vespa è veramente fantastico. I had a few, but then again, too few to mention. Per esempio, non ho nessuna difficoltà a dirle che Mario Draghi sarebbe un eccellente presidente del prossimo governo. Without exemption. Il giovane comunista Salvini rimane ancora saldamente radicato in lui e quindi molto spesso ha delle uscite che non sono apprezzabili. Along the byway and more. Much, much more. I did it my way. Per esempio, noi con i 5 Stelle condividiamo quel reddito di cittadinanza nei confronti dei cittadini che non hanno entrate, e questo è qualcosa che è la prima preoccupazione che dovremmo avere. Attaccare! Soprattutto che risuoni oggi a Doha, a Doha, sempre più forte nel deserto del Qatar. Attaccare! Forza ragazzi, forza! Attaccare! Forza ragazzi, che gli abbiamo spaccato i denti l'ultima volta. Forza ragazzi! Attaccare! Ah! Signori, è tornato Berlusconi! Da Bruno Vespa o Bruno Vespa da Berlusconi, non si capisce mai. E siamo qui alle 6:34 minuti in diretta in questo venerdì 23 di dicembre. È il giorno in cui il Parlamento chiuderà. 9-9 è la data che tengo a memoria. Forza Marione! Dai Marione! Oh. Dai! Guarda bello, fai wave, basta da Amy Silla, vedete? Marione Adinolfi, canta con noi, lindo! Della Madonnina, innamorato pazzo. Ma c'è anche la Madonnina, dai, è brutta, no, tu. No, ma c'è anche porta. La Madonnina, mi ha messo la Madonna. Siamo la Madonnina. Senti, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Che brutto, ma non l'avete cambiato sto inno? Mi pareva che era cambiato. No, l'abbiamo cambiato, no. Mettendo questo da poco, appunto. Oggi a Doha, ore 17.30, ora italiana, il pronostico di Marione Adinolfi. Tanto Marione, poi ti riprendo il 9 gennaio, chi se ne frega. Diciamo 3-0, tra l'altro siete arrivati pure con questo atteggiamento da zingari, dicendo ah, c'è saltato l'aereo, capito? I soliti poracci, insomma, quindi va bene. Galliani fra un po' dirà che l'illuminazione non è adatta e chiude là, 3-0 a tavolino, diciamo. 3-0, no, a tavolino. Allora, no, il pronostico di Marione Adinolfi... 3-0, insomma, comunque, ma nel caso a tavolino. A tavolino, 3-0 per la Juve secondo Marione Adinolfi. L'ultima volta avete preso, ti ricordo, legnate sotto il mento, eh? Ho sofferto molto, ancora sto rosicando. Vincerete il campionato con 40 punti sulla seconda, ma intanto alle 5:30 di pomeriggio, ma uno può vivere così alle 5:30 di pomeriggio. Posizione di tiro, Locatelli! È brutto questo momento, Locatelli! Molto brutto. È molto brutto. Allora, se avete capito, c'è Marione Adinolfi oggi insieme tra l'altro per chiudere il Parlamento, per 2 settimane. Eccola qua, come mi è mancata l'Aurora. Cosa stai ascoltando, Aurora, mamma? Cosa ascolti? Cioè... Milan, i cori alpini lì del Natale. Ah, i cori alpini del Natale. La bimba qua deve crescere nella tradizione, volevo dire. Radicalizzata. Quindi... No, dicevo... Vabbè. Bianco Natale, un coro alpino qua, ovviamente lombardo, Natale. Chiamo molto. Va bene, Bianco Natale. No. Allora, Aurora Lussana, vi voglio subito far litigare. Apriamo il Parlamento. No, litigare no. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma nel giornale ideale di cui è direttore Aurora Lussana, leggo notizie dagli esteri. Roma salta il concertone di Capodanno. Anche quello salta. Milan lo sai, no? Credo che anche tutti coloro che odiavano questa capitale italica, tutti quelli che andavano col treno Nerone a fare le manifestazioni a Roma, guarda, un po' sono dispiaciuti, perché proprio anche odiare Roma, cioè un po' ti dispiace, perché guarda, peggio di così, Marione, no, cioè, state con le pezze al culo, Marione, questa è la verità. Un po' c'è ragione. Questo governo un po' strano nella città è drammatico. Sono passato proprio a Piazza, hanno messo le lucine all'albero. Ho visto questa cosa bellissima, vi giuro, una foto. Ecco le bancarelle di Piazza Navona del Natale sono in allestimento. Esatto. Stiamo al 23 di dicembre, in allestimento, amici di Roma. Ma cosa combinate? Ma il Natale... È Roma con i 5 Stelle. Questa è l'aggiunta alla milizia romana. Adesso va l'allestimento delle bancarelle in Piazza Navona. Non è che... C'entra tu sempre il comune, non è che sempre cambia il comune, niente. Sempre il comune. Stanno allestendo con calma le bancarelle di Natale 2017, evidentemente. Ormai. Vabbè, e la nostra Aurora, sai che però, Marione, la nostra Aurora proprio disse questa famosa battuta: per quel che mi riguarda, Roma sarebbero 2 righe dagli esteri nel mio mondo ideale. 2 righe di notizie dagli esteri. Nel mondo ideale, insomma, se si faceva, se c'è, no, nel senso nel tuo paese consensuale, ovviamente. Ha ragione, quando vengo a Milano ogni volta dico sempre che la cosa bella è il treno per Roma, è ovvio che tutti noi abbiamo le nostre slogan, questa rivalità, va bene. Ma dove vive Aurora Lussana? Non ho capito, dove vive? Aurora Lussana vive nelle valli bergamasche e di origine, ma ora vive a Cantù in quanto sposata. A Cantù, parli di Roma, vai a cortesia, insomma, siete Cantù, voglio dire. Cantù, rendi conto, ma sei andato a fare giro a Cantù, quanto era una camminata, poi passa da noi, il famoso struscio di Cantù, che si fa a Cantù sabato sera alle 21, che si fa a Cantù? Allora, qui in Insubria si vive bene, qua a Cantù c'è una grande vita. L'amministrazione non è della Lega, quindi non è un granché, però no, si vive bene, gente simpatica, grande grande armonino, una bella comunità, bella mi piace. Comunità, va bene. Sì, ma l'Insubria è una terra magnifica, guarda, siamo gente accogliente. E lì cresce la nostra, come cresce la nostra Benedetta? La Benedetta, tutto bene ormai, la cristiana, Brianzola. Sempre cristiana, sì, bianca cristiana. Cristiana. Quasi 6,5 kg la Brianzola, 5 mesi, tutto bene. Tutto a posto, questa è la cosa che ci soddisfa di più. No, ci introduce al tema. Allora, io, Aurora, puoi dire quello che vuoi, dai. Oggi si legge su questo jihadista radicalizzato in carcere. Ma guardate, ma io dico una cosa, siccome lo scrive anche Repubblica, 50.000 espulsi spariscono, diventano fantasma. Guardate che l'ha detto un PM oggi, il capo della procura di Lecce. Andrebbero arrestati, mica che uno li fa, ma se uno è un presunto terrorista internazionale, ma ci saranno gli strumenti, l'ha detto un magistrato, per metterli in carcere invece che lasciarli liberi a colpire? È anni che lo diciamo, basta. Non lo so, Milan, io te l'ho detto, ormai mi è rimasta la preghiera qui per difendere l'Europa. Cosa vuoi fare? L'Europa dalle porte a pé, hai visto che disastro, è così. Ecco, ci rimane solo. Dai, Marione, che adesso mi attacca la pezza su Schengen, le frontiere, diciamo, su. Attenti pure con la preghiera, perché come hai visto il tunisino in carcere diceva: ti stacco la testa, cristiano. Anche questo, diciamo, è uno strumento che va adottato con parsimonia davanti a queste personalità. No, resta il problema. Questo è un elemento interessante, che la radicalizzazione è di tipo religioso, non di tipo politico. Questo è un elemento che andrà compreso prima o poi. Io da molo dico, guarda che mi insultano tutti su Twitter, attenzione. Affronti questo tema, cioè il contrasto di caputatura religiosa, partire da un'identità cristiana recuperata, questo lavoro diventerà molto problematico, perché chiaramente una religiosità molto aggressiva e proliferante diventa forte rispetto a una. Però attenzione Marioni, perché molti dicono: guarda, che in realtà questo qui, uno che ha vissuto spacciatore, poi nelle carceri, cioè appiccica. Uso questo termine, la religione, ma potrebbe appiccicarci qualsiasi pretesto per dire. Però ci appiccica la religione, cioè quando noi diciamo si è radicalizzato in carcere, si è radicalizzato dal punto di vista religioso, cioè in carcere 358, mi sembra, sono stati i numeri indicati dal DAP, passano da una religiosità blanda o addirittura una sostanziale ateismo a una religiosità molto forte e radicalizzata. Questo passaggio come avviene? Questo è il punto di domanda. In carcere gli arriva l'illuminazione, arrivano delle cellule organizzate che radicalizzano in termini religiosi. Dai, Aurora, che si fa? Ecco la ricetta leghista. Dai, frontiere, perché giustamente le frontiere. Espulsioni. Di ripristinare anche loro hanno smantellato tutta la normativa qua sull'immigrazione in Italia, un disastro, ripartire più neanche il C, cioè l'anno zero degli minori, bisogna rifar niente, bisogna andare al governo, che deve andare su. Ecco, questo è il programma. Andare su Salvini al governo, deve andare sulla Le Pen in Francia, cioè proprio deve esserci tutta una roba in Europa. Che bello! Le Pen in Francia, Wilders in Olanda, Salvini in Italia. Eccola. Se no si va avanti così. E noi, Marione, dove andiamo? Marione, ma il problema è che glielo dovete spiegare a Berlusconi, perché non so se avete capito che Berlusconi non è molto convinto, diciamo, dell'operazione comunisti padani, chiamiamola così. Però c'è da dire questa cosa, ma Salvini un po' comunista lo è sempre stato, cioè frequentatore del Leoncavallo, centro sociale storico. Quando mi ha fatto le elezioni padane nel 97 era candidato dei comunisti padani. Io ero candidata nel muro per la Padania, cioè facciamo un muro sulla. Sì, muore la lista. E invece lui era giù nei comunisti padani, aveva preso anche un po' di voti. E non era la stessa cosa quelli del muro e quelli dei comunisti. Di solito in Europa funzionava così. Le correnti, ma è bellissimo. Sì, perché certo, scusa, in Padania siamo un po' tolleranti, non è che dovevano essere tutti della Lega. Tra l'altro, attenzione, a proposito di Cantù, scusa, ho avuto un flash, come vi dice un ascoltatore, c'è mica la sede di Radio Maria, caro? No, è Erba. Erba Marione, quello invece è Erba. Erba è una cittadina di quelle, proprio. Ma qua te l'ho detto che in Subria ci divertiamo, ce n'è di ogni. La Radio Maria, sì, no. Sono dei bei poli, devi venire sul Marione in Subria, lo invitiamo. Ma lui lavora per Radio Maria, ma neanche si scomoda e lo fa da Milano, da Roma. No, non l'ho mai vista la sede di Radio Maria. Mai vista. Ma è qua sulla statale. Ti porto. Va bene, ovviamente ci sono i messaggi. Con Livellozzo da 6 kg e mezzo, portiamo anche lei che bisogna avvicinarla subito alle cose importanti. Esatto, ci sono anche dei messaggi molto pacati, tipo Milan, di al tuo amico Ciccione di venire a Cantù che capisce qualcosa della vita. Certo. Però quello, quando entrate in chiesa e non trovate i tre Caravaggio che trovate nella parrocchia, quando io ho visto Ciccio, abbiamo la basilica qua di San Vincenzo a Galliano, che è del 1000, una chiesa romanica, una meraviglia. Io vado a chiesa, abbiamo 330 noi a Roma, a parte che il Caravaggio era di Bergamo, se non veniva Giulio a farvi i quadri non ce l'avevate. Ecco, ma uno ve l'ha fatto a Cantù, almeno ve l'ha fatto, l'ha lasciato. Non lo so, forse Caravaggio un lascito anche a Cantù. Ma comunque guarda che lei non è che difende molto Cantù, lei è delle valli bergamasche, che si è sposata e vive a Cantù. Ma avendo fatto un matrimonio misto, cioè è una straniera in realtà anche lei. Sono dovuta emigrare dalle mie terre, da Orobie. Non mi piace, donna sottomessa, così mi piace. Sì, come la chiesa sottomessa a Gesù, ma Gesù era pronto a morire per la chiesa, quindi ecco. La donna sottomessa. Bravo. Allora andiamo al traffico, che poi vi voglio far sentire, voglio chiedervi qualcosa di Poletti. Caro Marione, voglio chiederti anche cosa ne pensi di Tiziano Ferro, ti piace, no, Tiziano Ferro? L'ho già ribattezzata, Sighe Nere. Sighe Nere? Ha detto vuole fare figlio da solo. Ho capito, va bene, dai, andiamo al traffico. Alessandro Milan, sei solo traffico e distintivo, traffico e distintivo, traffico e distintivo. In base al discorso di Poletti, secondo me non ha tutti i torti, c'è tanta gente che è all'estero ma che ci rimanga pure. Di recente sono stato a Roma e ho trovato una città non sporca, oscena. Poletti si deve dimettere per le dichiarazioni che ha fatto in merito al referendum sull'articolo 18, non per la questione dei giovani all'estero. Laurea non c'è, Valeria mia, laurea non è una cosa tua. Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male non lo sa. Hanno fatto come una comparazione fra gli alberi di Natale, non so se risponde a vero, insomma quello di Roma era il peggiore, il più spennato, che non era un albero, era uno scopino, diciamo, che hanno messo lì non so dove. E invece quello di Salerno era il più bello. Obiettivamente è un bellissimo albero di Natale. Dispiace per la capitale, dispiace per Roma. Vabbè. Marione? Ma dai, Sighe Nere, mamma mia, ma sei veramente. Ma uno può dire faccio il figlio da solo, ma come gli viene in testa? Ma fa figlio con una donna. No, non hai capito, ha detto faccio il proprio titolo di Vanity Fair, sì, faccio un figlio da solo. Ora, sì, da solo nel senso che non ha un compagno, non ha una compagna. Col compagno pure ci faceva poco, sempre lì stavamo. Vabbè, certo, si utilizzava, so che il termine ti piacerà molto, si utilizzava un grembo materno comunque. So che sei contrario anche tu, Milan, a questa vergogna schifosa dell'utero in affitto. Io sono abbastanza contrario, sono abbastanza contrario. Affia veramente, faccia qualcosa di bene. Sì, ma non lo bambini, demonizzo come te. Non lo tolga il diritto di un bambino ad avere sua madre. Questa è una cosa vergognosa. violenza dei ricchi nei confronti di donne in stato di bisogno. Ecco. È una cosa vergognosa. Ma guarda che sono contrario anch'io, come dici tu, però mi sembra non sono così. Non se ne parli in maniera tollerante, perché è una cosa davvero intollerabile. Non ti piace, insomma. Intollerabile. Ma l'idea però... L'idea illegale in Italia. Sì, certo che è legale in Italia. Però l'idea che Tiziano Ferro un domani possa avere un figlio, cioè nei confronti di questo bambino o bambina... Si sposa e si innamora con una bella ragazza, fa un figlio. Funziona così. Aurora, come hai fatto tu? Pare che con l'onorevole Molteni abbia usato il metodo classico. È andata così, sì, no? Sì, una congiunzione carnale. Una congiunzione carnale, sì. Va bene, sì, sì. No, sì, sì, bello. Bello. Un vago ricordo. Hai un vago ricordo. Dite a Tiziano Ferro, e quando è gratis è meglio, capito? Quando è gratis è meglio. Abbiamo sistemato anche Tiziano Ferro. Aurora, vuoi, perché vago ricordo? Vuoi condividere questo vago ricordo? Poverina, lei non vuoi condividere questo vago ricordo con noi? Era una tempestosa. No, una meravigliosa benedizione del Signore, è stata una roba, bello, tutto bello. No, una meraviglia è stato, guarda. Ripeto, un vago ricordo. Un abominio sta cosa qui di andare addirittura l'abominio. Marione, arriva un messaggio, sei rimasto al 900 tu, al 1900. Sono rimasto pure al 1100, ma è una cosa intollerabile. E chiunque ragioni un minimo e abbia senso rispetto alle dinamiche che devono innescarsi nella società capisce che pensare che si compri i figli a 200.000 euro in America è qualcosa di estremamente pericoloso. Eppure Natale, mettiamo al mondo un bambino, insomma, potrebbe essere a Natale. Ma lo mette al mondo sua madre e quel bambino ha il diritto civile, quello sì, veramente diritto civile, ad avere sua madre, non ad essere comprato da un ricco. Quindi, e con quella madre non ha nulla a che quindi fare. Elton John niente, Nicky Vendola niente, certo. Ricky Martin ha un figlio, sono lui. Belli i bimbi quando poi vedi queste copertine, appunto belli, vedi poi dopo tu dici Marione non ho nulla contro il bambino però insomma come fai a dire no nulla contro il bambino. Ma vi siete accorti dell'elenco dei nominativi che mi avete fatto? Non risultano operai della Val Trembana che tanto cara alla Rossana, non risultano impiegati comunali, ma infatti sono i ricchi che vergognosamente sfruttano il corpo della donna e questo è francamente eccolo qua, va bene, abbiamo sistemato anche Tiziano Ferro, cara Aurora, definitivamente di Seghenere, ma vabbè, sostituirsi a Dio, sai, proprio peccare di Iris. Sì, questa tracotanza di dire posso far da solo questa idea di ma magari Tiziano Ferro non ci crede a Dio, non è... ma infatti si sostituisce a Dio. Dio no, ma la natura ci devi credere, insomma, quando pensi di poter creare da solo, forse sì, è un po' di hubris, questo sì, va bene. Allora facciamo così, a proposito di figli, vi voglio chiedere che ne pensate del figlio del ministro Poletti, esatto, attenzione che tra l'altro Poletti, vogliamo sentire le scuse di Poletti, che dopo che Poletti padre, Poletti ministro. A proposito di giovani che vanno all'estero, mi sono espresso male e mi scuso con tutti. Quello che è successo veramente mi fa stare male. So di avere sbagliato. Scuse che però non hanno placato l'ira. Ma perché io dico sei il figlio del ministro e rilascio le interviste al Fatto Quotidiano, alla Stampa? Questa è una cosa veramente che da due giorni mi sulla vanitatis. Però adesso io dico una cosa. No, voglio spezzare una lancia per il ministro Poletti. Cioè, pensare di dimettersi perché ha fatto uno scivolone clamoroso, forse anche un po' esagerato. Che però non è più credibile Milan adesso, cioè proprio hai capito, quando poi nella credibilità no, viene meno la tua autorevolezza, poi fai fatica a fare, vabbè che ormai c'è quella là che non c'ha la, vabbè che è un puttana. Cioè, essendo una scienziata politica, attingendo i termini della politologia, direi che è un puttanaio tale il Bustiale, anche il Poletti. Cioè, anche Salvini qualche cavolata l'avrà detta, no? Ti ricordi i napoletani quando cantava? Ma quello era il coro del... quello lì è un coro da stadio. Ho capito, però lo stadio cos'è che si canta, quella roba lì? Non è che era ministro, vabbè, era, insomma, era qualche, un coro qualche, della curva. Qualche gaffa, qualche frase un po' fuori posto anche Salvini l'avrà detta, no? Ma sì, il ma comunista tutti, Salvini. Però e allora... ho capito, puttanaio di sto governo qui, che ripeto già è nato male adesso. È stato riconfermato Poletti. Sentiamo Mario, Marione deve dimettersi il ministro Poletti dopo una frase del genere. Io trovo incredibile che Valeria Fedeli, che ha mentito agli italiani con un titolo di studio farlocco, violando l'articolo 54 della Costituzione, che chiede di svolgere i pubblici uffici con disciplina e onore, e mentire sul dato sul proprio titolo di studio è palesemente disonorevole, che non ha la laurea, che ha millantato, che non ha neanche fatto quello, mi sembra più grave per esempio, esatto, quello del ministro Poletti, voglio dire, no? Che in qualsiasi paese del mondo sarebbe stata immediatamente portata a dimissioni se non si fosse voluta dimettere, perché ricordiamo che in Germania un poveretto che aveva copiato una riga del suo dottorato è stato cacciato immediatamente. Poi si fa il casino su Poletti. Io questa cosa veramente in termini mediatici non la capisco, ho letto interviste giustificatorie alla Poletti su Repubblica, su Corriere della Sera, alla Fedeli, in maniera proprio a tappetino, in ginocchio, una cosa che non si riusciva a capire, poi improvvisamente su Poletti. Per mezza frase oggettivamente sbagliata, ma insomma, che non si riesce a comprendere. No, su questo sono d'accordo, è molto più grave quello che ha detto la Fedeli. Però, io, visto che a questo punto l'abbiamo istituito, grazie a Giachetti, lo vogliamo rifare anche oggi? Come il culo. Eccolo qua. Avete la faccia come il culo. Il nostro premio faccia da culo, lo possiamo dire, l'ultimo assegnato del 2016. Aurora, tu chi lo assegni? Tra l'altro mi chiedono se ti candidi a Cantù sindaco, attendono tutti. Io c'ho la Benedetta, come c'ho la Benedetta. Si candida Benedetta Molteni, tranquillo. Benedetta Molteni. Va bene. Allora, a chi assegniamo questo premio, secondo te? Allora, tutti quelli che dicevano no, non associamo l'immigrazione clandestina col terrorismo. Guarda, vai a dirlo facce a quel povero camionista polacco. Facce da. Marione, tu a chi dai il tuo premio? Faccia da? A Valeria Fedeli, oggettivamente impressionato dalla sua capacità. E io mi sarei vergognato, non ce l'avrei fatta. Siccome sono uno, insomma, che sapete, si vergogna raramente. Ma veramente non riesco a capire come faccia a rimanere ministro della pubblica istruzione. E anche ai giornalisti che hanno fatto l'intervista in ginocchio per giustificarla questi giorni. Quindi hai detto fare Romi e Cogliotti. 3-0 Dybala Higuaín. Va bene, ti ringrazio. La gioia, mi raccomando. Vado subito a twittarlo, grazie. Intanto vi faccio un buon Natale. Maria Di Dolfi, Aurora Lussana. E ci risentiamo nel 2016. Sì, anche nel 2017. Ciao. È arrivato Milana Lino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Alle 7:19 minuti, signori, eccoci qua. Per quel che mi riguarda, ultima puntata del 2016, poi ci risentiremo il 9 gennaio. Fate i bravi, non lamentatevi. Tanto Radio 24 va avanti lo stesso, anzi meglio. E quindi, alle. Allora, alle 7:19, come detto, siamo nello spazio della rassegna stampa di 24 mattino. Andiamo a scoprire cosa ci propongono i giornali in edicola. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a venerdì 23 dicembre e le aperture per molti sono dedicate al Monte Paschi. Sia il decreto banche, lo Stato salva Monte Paschi Siena e l'apertura del Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera a Monte Paschi, la mossa del governo. Così Repubblica, banche, la resa del Monte Paschi, il tesoro tornerà padrone a Siena. Il Messaggero, salvataggio MPS, entra lo Stato. Il Giornale, lo Stato salva il Monte Paschi, ecco cosa succede ai risparmi. L'Unità, lo Stato salva MPS e risparmiatori. Invece la Stampa si concentra su una interessante notizia sull'altro tema finanziario del momento. Mediaset Telecom, si muove il governo e vedremo di che cosa si tratta. Poi, vicende giudiziarie. Il titolo del Fatto Quotidiano è un'esclusiva, è indagato Lotti. Questo è il titolo, è indagine di PM di Napoli che riguarda il neo ministro fedelissimo di Renzi. L'inchiesta su appalti truccati e soffiate alla Consip, il titolo di prima pagina, indagato Lotti.